pesam, guardo la casilina, sputa odio ed eroina. A volte lo vorrei, guardie nere palline, calmano la testa, lo so, questa tempesta finirà prima o poi, in una festa, non so, di ritorno in tangenziale. Questa vertigine.